La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici del cinema e di Radio 24 qui alla Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema che vi racconta tutti i sabati, tutte le domeniche, quel che di nuovo c'è sui grandi schermi d'Italia e anche quel che di nuovo c'è nel mondo del cinema in generale, di qua al di là dell'oceano, al di qua e al di là del piccolo schermo. Una settimana molto importante, se non vado errato, perché ci sono alcune distribuzioni che non sono proprio capillari, si parla di 8 o 9 nuovi film che arrivano nelle sale. Impossibile ovviamente trattarli tutti, abbiamo dovuto fare delle scelte, abbiamo dovuto anche fare delle dolorose rinunce, ma andiamo a sentire la crème della crème, quello che abbiamo scelto nei nostri titoli di testa. Un film dall'esilio. Esce nei cinema italiani L'uomo nell'ombra, il nuovo thriller di Roman Polanski con Pierce Brosnan e Ewan McGregor. Un atto d'accusa contro le menzogne della politica. Dal Tirreno allo Ionio è Basilicata Coast to Coast, il road movie musicale con Rocco Papaleo, Alessandro Gassman e Max Gazzè, con epilogo a sorpresa. La morte leggera. Arriva dal Giappone Departures, un piccolo capolavoro sulla figura del Tanato Esteta, colui che prepara i morti all'estremo viaggio, premiato con l'Oscar. Michael Douglas, Susan Sarandon, Danny DeVito. È un vero dream team il cast di Solitary Man, commedia romantica su un venditore d'auto donnaiolo. Ne parliamo in Trailer USA, la nostra vetrina sulle novità americane. E allora questi contenuti della puntata della Rosa Purpurea, noi cominciamo subito col film probabilmente più atteso di questa settimana, almeno più atteso da noi insindacabilmente, che è L'uomo nell'ombra, The Ghostwriter, il ritorno di Roman Polanski per un film presentato al Festival di Berlino e che finalmente arriva nelle sale, un film che ovviamente ha vissuto anche in chiave produttiva il momento anche drammatico della vita di Roman Polanski, e come sapete a un certo punto della lavorazione ha dovuto abbandonare il set per le vicissime istituzioni giudiziarie che tutti conoscete. Allora, presentato a Berlino, dicevamo, noi ne parliamo con Boris Sollazzo, che a Berlino c'era ed ebbe anche modo di incontrare il cast di questo film. Ciao Boris. Ciao Franco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo, Boris, un film contumace, lo potremmo dire, almeno parzialmente, di Roman Polanski, finito dopo appunto le vicissitudini giudiziarie. Io vorrei cominciare a chiederti un po' di raccontarci il film, però prima ascoltiamo una prima clip, un primo estratto audio di un dialogo molto breve, che però racconta un momento importante, cioè l'incontro tra l'uomo politico, dietro il quale non è difficile scorgere il profilo di Tony Blair, e il suo ghostwriter, titolo originale molto più fortunato di quello tradotto in italiano, ovvero la persona che gli deve scrivere i discorsi, come capita per tutti i politici e gli uomini di comunicazione, una persona nuova, appena arrivata alla corte di questo politico, non sarà un incontro particolarmente facile. Ciao tesoro. Come è andata a New York? Rapido e indolore. Barry, Amelia. Salve, lei chi è? Sono la sua ombra. Ah, è vero. Non preoccuparti, non è sempre così stronzo. Allora Boris, abbiamo sentito questa clip, raccontaci un po' la storia del film. Allora, come dicevi tu, è illuminante questo dialogo che avviene tra Ewan McGregor, il ghostwriter, e Pierce Brosnan, l'Adam Lang, ex premier della Gran Bretagna e di fatto alter ego sia per Harris che per Polanski di Tony Blair, perché lui dice: sono la vostra ombra. E invece, questo è uno dei tanti danni degli adattamenti italiani, nell'originale lui diceva sono il suo fantasma, richiamando con una gaffe l'uccisione del precedente consulente che doveva scrivere le sue memorie dello stesso Adam Lang. E quindi insomma si capisce che doveva essere particolarmente importante quel momento e viene spezzato dal mancato adattamento in italiano. E il film parla appunto di questo Adam Lang, ex premier, in difficoltà, in decadenza, che vuole scrivere le sue memorie, vuole ritornare almeno nella storia del suo paese, proprio nel momento in cui viene accusato di un sequestro illegale della CIA che avrebbe avallato con i suoi servizi segreti. Niente di più attuale, è una cosa che è successa allo stesso Tony Blair, 4 terroristi, uno muore sotto tortura e lui viene incriminato per crimini di guerra. Si parte da questo. Ewan McGregor che deve fare? Deve indagare sulla vita di Adam Lang. Indaga troppo. Questo non lascerà molta speranza a quasi nessuno dei protagonisti. Allora a questo punto, Boris, ascoltiamo un altro passaggio del film, un altro dialogo fra Pierce Brosnan e Ewan McGregor, dove il politico, interpretato da Brosnan, racconta la sua condizione di uomo potente e quindi di conseguenza isolato. Sentiamo. Sa qual è la cosa peggiore di una vita come la mia? Perdere il contatto col mondo reale. Tu non guidi, di denaro non disponi. Il contante dovrei farmelo prestare dai ragazzi della scorta se dovessi averne bisogno. Questo è il genere di dettagli che ci serve nella biografia. Non posso metterci questa roba. La gente penserebbe che sia un idiota. No, niente affatto. No, se descrive che significa essere primo ministro. È quello che i lettori vogliono sapere. Che effetto fa guidare una nazione? Che effetto fa essere così tagliati fuori? Che effetto fa sentirsi così odiati? Grazie tanto. E tanto... così amati. Allora Boris, abbiamo sentito ancora questo dialogo, anche questo abbastanza centrale per lo sviluppo del film. Come si colloca, Boris, questo film, ricordo ancora il titolo, L'uomo nell'ombra, cercatelo nei cinema con questo titolo perché non lo trovate, come The Ghostwriter, nell'ambito della produzione recente di Roman Polanski? È un film riuscito? La risurrezione di Polanski regista, nonostante, come hai detto tu, abbia dovuto lavorare in contumacia sia la post-produzione che poi l'adattamento finale. È un film molto importante a mio parere per Polanski, perché rappresenta da una parte forse la vendetta sua nei confronti degli Stati Uniti, che non ne escono bene, e in generale della legge occidentale, e dall'altra parte anche una sua risurrezione cinematografica. Polanski gioca a fare l'Hitchcock grazie alla scrittura molto solida di Robert Harris, che è anche co-sceneggiatore e consulente. Fa un thriller solidissimo, un thriller a cui non si può dire niente né formalmente né contenutisticamente, e riesce a fare un film molto appassionante, molto semplice, molto diretto, appunto nella migliore tradizione dell'Hitchcock, che viene anche più volte citato. E Polanski si permette anche qualche citazione personale. È un film più personale di quello che si possa credere. Allora, grazie a Boris Sollazzo. Noi andiamo a sentire i protagonisti di questo film, perché abbiamo un paio di dichiarazioni di Pierce Brosnan. Cominciamo proprio su Tony Blair, perché avete sentito, dietro questa figura di Lang c'è in realtà Tony Blair, ma proprio Pierce Brosnan racconta quanto Polanski gli abbia chiesto di allontanarsi dalla figura dell'ex premier britannico. Ho detto a Roman... non farò Tony Blair. E lui, no, non devi fare Tony Blair, ma non puoi prescindere da lui e la sua storia. E così ho letto alcuni articoli di giornale e alcune pagine della sua biografia, ma più che altro mi sono concentrato sulle pagine del copione. E a proposito del lavoro con Polanski, Brosnan esprime solo parole di ammirazione. Il libro mi è piaciuto molto, è straordinario. Una lettura appassionante. E poi il tocco di Roman è il tocco di Roman. Ha uno stile tutto suo. E pur rimanendo fedele al romanzo di Richard Harris, è riuscito ad imprimere al film il suo tocco personale come regista. E questo era Pierce Brosnan, protagonista dell'Uomo nell'ombra, di Roman Polanski, nei cinema italiani. Sono troppo contento che ci hanno preso, perché non è un festival amatoriale, è proprio a livello nazionale. Ho capito il festival di Scanzano, Nico, però mo concentrati, che potevo andare a lavorare. Io mi chiamo Nicola Palmieri, attraversare la Basilicata da una costa all'altra. Ecco l'idea. Invece di andare a Scanzano lo stesso giorno del festival, partiamo 10 giorni prima. A piedi ce la dobbiamo fare. Agosto, moglie mia, non ti conosco. Dico, siamo a settembre. Infatti sei incazzato. Allora, ben ritrovati alla Rosa Purpura, seconda parte del nostro programma. Rocco Papaleo in collegamento con noi. Ciao Rocco. Ciao. Grazie di essere stato qui con noi. I nostri ascoltatori sono reduci, insomma, dall'ascolto di questa clip nella quale Rocco Papaleo dà un po' il meglio di sé in questo Basilicata Coast to Coast, un film nelle sale da questo fine settimana. È un film molto divertente che noi ci sentiamo di consigliare, che abbiamo, come dire, sponsorizzato col cuore dopo averlo visto. Un road movie musicale, Rocco. Come ti è venuta in mente sta storia? Passare la Basilicata dal Tirreno allo Ionio? Diciamo che ci sono tante suggestioni, no, che mi hanno accompagnato in questi anni e che probabilmente hanno concorso un po' alla formazione di questa idea. Ti dico, per dire, mio zio negli anni 60 ha fatto un viaggio spiritoso, quantomeno presero la prima 600 che circolava dalle nostre parti, andarono a Parigi misero una tenda a Parigi, dormirono la notte e se ne tornarono di nuovo al mio paese. Così, una cosa quasi apparentemente senza senso, e così giusto per il gusto di viaggiare. Ma oltre questa cosa, c'era proprio questa voglia di un viaggio un po' a ritroso, no? Anche nella mia terra, ma sulla terra in generale, c'è una terra un po' da calpestare coi piedi, e il viaggio poi in fondo contiene sempre questa metafora del percorso esistenziale, e così alla fine tra una cosa e l'altra si è formata questa idea un po' stravagante che mi è piaciuto molto. Così trasporre cinematograficamente, ne ho avuto la possibilità e sono molto felice del risultato. E tra l'altro, come dire, ti ha dato anche la possibilità di esordire alla regia, che insomma per un attore della tua esperienza e del tuo curriculum non è poco. Una terra, hai detto, da calpestare con i piedi. In effetti i quattro musicisti più la foto per cineoperatrice protagonisti del film non è che fanno le strade principali, vanno in giro per una Basilicata meravigliosa e tutta totalmente naturale. Io voglio far ascoltare un'altra clip del film, un momento in cui appunto i ragazzi, diciamo così, che sono tra l'altro fior di attori, Alessandro Gassman, Paolo Briguglia, Max Gazzè, oltre a Rocco Papaleo, si esibiscono in una doccia all'aperto, en plein air, in tutta la loro nudità. Ascoltiamo. Facciamo veloci che stasera c'ho da fare. Scusa, ma ti sei di fretta, vai, se permetti, vedete che dovresti seguire i nostri ritmi, siamo noi che ci mettiamo la faccia. E non solo quella, mi pare. Dai, state così, vi riprendo solo sopra, viene bene. Ma che stiamo scherzando? Chiaro. È carino, è più vivo. Allora fate come cazzo vi pare. E ricordatevi che malgrado le apparenze, io sono una persona seria. Vaffanculo. Come avete sentito, Alessandro Gassman se ne va salutando un po' e mandando tutti a quel paese, se ne va a chiappe al vento. È un momento davvero notevole. Rocco, Giovanna Mezzogiorno, abbiamo detto attori straordinari, ma io voglio soffermarmi su Giovanna, perché l'hai fatta recitare in una maniera in la quale non l'aveva mai vista, iperadrenalinica, sempre un po' con la vena gonfia sul collo. Come è venuto fuori questo personaggio? Beh, intanto con Giovanna siamo legati da un rapporto molto profondo di amicizia, di stima anche, direi, no, professionale. È stata un po' anche lei che mi ha estorto dolcemente l'idea di fare un film mio. Erano tanti anni che lei mi spronava a provarci, e quindi lei, diciamo, è un po' a monte di questo progetto. Naturalmente, conoscendoci bene e avendo voglia, sia io che lei, no, di uscire un po' dai canoni, e abbiamo costruito questo personaggio. Devo dire che poi durante le riprese questo personaggio ha vissuto anche un po' di vita propria, nel senso con molta influenza da parte sua, abbiamo creato dei momenti completamente imprevisti rispetto alla sceneggiatura, addirittura cambiando di gran lunga quello che era il progetto iniziale. Parlo proprio dei connotati, no, del suo personaggio, del suo percorso emotivo durante il film. Per esempio, per farti capire, hai visto quel momento in cui lei fa quel racconto di Babbo Natale a Max Gazzè, e quella roba lì l'ha completamente scritta lei, e dopo che aveva letto il pezzo che doveva fare e non le piaceva tanto, e così ne ha scritto uno lei, me l'ha proposto, mi è piaciuto molto, ci abbiamo lavorato un po' e abbiamo fatto girato quello che aveva scritto. Quindi, insomma, un'interattività piuttosto direi notevole, che normalmente quando lavoro come attore, diciamo, è difficile avere questo tipo di libertà, per cui siccome mi manca alcune volte, no, ho pensato di lavorare in un modo più atipico, cioè dandosi un rigore e una progettualità al nostro lavoro, però lasciandoci anche dei margini molto grossi di creare insieme poi giorno per giorno una nuova escalation. E allora, grazie a Rocco Papaleo, Basilicata Coast to Coast nei cinema italiani, in tutte le principali città, quindi assolutamente reperibile nei nostri cinema. A risentirci, Rocco, e in bocca al lupo per questo film. Ti ringrazio dell'attenzione. Rocco Papaleo, Basilicata Coast to Coast. Noi andiamo avanti, apriamo la prima finestra sul DVD game di questa settimana, anzi è un Blu-ray game ancora una volta, perché questo grande film arriva nella versione in Blu-ray. Ascoltiamo la prima clip. Il modo in cui mi guarda, la dolcezza delle sue labbra. Sto vivendo un momento terribile. E mi è successo proprio quando pensavo che niente avrebbe più potuto distogliermi. E invece è successo. E dire che non sono più un ragazzino. È come se fossi entrato in un labirinto e non sapessi più trovare l'uscita. Per il momento fermiamoci qui, poi più tardi ci saranno altre tracce, cercheremo anche di aiutarvi un po', perché è un film molto importante, molto famoso, ma non molto facile da indovinare, a mio avviso. Però se qualcuno già ha capito di che si tratta, la rosa purpurea @radio24.it è il nostro consueto indirizzo di posta elettronica, scriveteci anche il vostro nome, cognome e indirizzo, perché se siete i più bravi e veloci e avete già indovinato, concorrerete a vincere numerosi Blu-ray, perché questa volta la casa di distribuzione, come scopriremo la prossima settimana, ce ne ha messi a disposizione più del solito. Siamo arrivati adesso a un terzo film scelto dalla nostra redazione per parlarne, per raccontarlo fra quelli che escono in questa settimana. È un film che si intitola Simon Konyansky, un titolo che già ci riporta una tradizione, una cultura ebraica. È una commedia grottesca, come nella migliore tradizione di questo genere di cinematografia. L'ha visto per noi Barbara Righini. Doveva venire a prenderlo per tempo. Il dopo scuola è chiuso da un'ora. Abbiamo provato a chiamarla una dozzina di volte. Per fortuna abbiamo trovato sua moglie. Se no chiamavo la polizia. Magari dovrei chiamarla io. Potrebbe aver picchiato mio figlio, avergli fatto una doccia gelata, visto che è un sadico. È distratto, Simon Konyansky. Distratto sì, ma suo figlio l'adora. A 35 anni è follemente innamorato di una ballerina spagnola dalla quale ha avuto il piccolo Adrien. Non ha un lavoro ed è ebreo. Da quando è tornato single vive con il padre, con il quale si scontra di continuo. Simone non sopporta le usanze ebree, ma quando il padre muore accetta di compiere un lungo viaggio fino in Ucraina per esaudire l'ultimo desiderio dell'uomo. Attraverserà l'Europa in auto con il piccolo Adrien e con gli zii, personaggi alquanto particolari. Con il viaggio accetterà e riscoprirà le sue origini. Papà! Volevo solo dirti che sono fiero di te, fiero che tu sia venuto qui con il mio nipotino. So che ti è costato davvero molto, ma era giusto che tu vedessi di persona. Papà, che ci fai qui? È qui che ci siamo nascosti, quando i tedeschi volevano trasferirci ad Auschwitz. Lui è Dan Salesman, il mio vecchio amico, ti ricordi? Ti ho parlato di lui e della sua schiena spezzata. Lui non è più uscito, come molti altri. Un road movie surreale, a tratti grottesco, che ricorda un po' Little Miss Sunshine, un po' Woody Allen e un po' ogni cosa illuminata. Il tema dell'olocausto è già stato ampiamente esplorato dal cinema, ma Misha Valdi, il regista, con Simon Konyansky, riesce a trattarlo con un tocco leggero e in più sottolinea come con l'avvicendarsi delle generazioni gli stessi ebrei guardino alla Shoah in maniera diversa. Abbiamo incontrato il regista, che così ha spiegato il perché abbia scelto la commedia. Sì, certo, in fondo è una commedia. Volevo che fosse divertente, anche per questo ho messo una samba come musica. Ma il film ha diversi strati. È una delle mie caratteristiche riuscire a sdrammatizzare e a ridere delle situazioni tragiche. Ho voluto tenere un tono leggero. Inoltre, i giovani della mia generazione non hanno vissuto in prima persona l'olocausto. Tutto quello che sappiamo ci viene dai racconti dei parenti, dai film, dai libri. C'è una certa timidezza, quindi. Non avrei mai osato fare un film come The Reader o come Schindler List. Ho preferito parlare d'altro, di una piccola storia familiare e poi toccare anche il tema dell'olocausto. Qui n'a l'air de rien, et puis par la bande, par le côté, essayer de toucher, parler de ces choses-là. Quanto c'è di te in Simone? Beaucoup. Molto. Beaucoup, sauf je mettrai jamais des lunettes pareilles. A parte che non metterei mai degli occhiali così. Diciamo che lui va oltre quello che potrei fare io. Voilà, j'aime bien les personnages de loser, j'aime bien. Mi piacciono i fannulloni, i provocatori, e poi mi piacciono i personaggi che sono vittime dell'amore, che soffrono per una rottura. Sono dei personaggi toccanti. Ho messo un po' tutte queste cose e in più tutte le domande che mi pongo. Che cosa sono gli ebrei oggi? Il giudaismo. Quindi molte domande. E il resto è per fare commedia. E allora, Mischa Wald, regista di Simon Konianski, al microfono di Barbara Righini, qui alla Rosa Purpurea. Breve escursione sulla classifica dello scorso weekend. È partito al primo posto la Cine Colomba di Carlo Vanzina, ma senza entusiasmare più di tanto. 1.693.000 euro e una probabile declino nel corso della prossima settimana, insomma forse il cinepanettone è ancora tutta un'altra cosa. Secondo posto per Dragon Trainer invece, questo apprezzatissimo piccolo film d'animazione in 3D che sta andando molto forte, ha avuto critiche molto positive. Terzo per Happy Family di Salvatore, che si conferma in terza posizione anche rispetto alla settimana precedente con il suo pubblico, e cresce piano piano. Alice in Wonderland al quarto posto sfiora i 30 milioni di euro globali. Alcune new entry: quinto posto per Il colpo di fulmine, Il mago della truffa, con Jim Carrey e Ewan McGregor. E ancora, andando più in basso, al decimo posto troviamo ancora Shutter Island, che veleggia verso i 7 milioni di incasso. Un buon incasso, un buon apporto di pubblico per Martin Scorsese con questo suo ultimo film. Andiamo in un territorio di commedia sentimentale tipica, brillante, americana, di quella più moderna, che infatti è popolata da un paio di attori, di quelli che fanno genere, come si suol dire. Sono Jennifer Aniston e Gerard Butler, insomma una coppia vincente per questo tipo di film, che si intitola in questo caso Il cacciatore di ex. Lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Milo Boyd è un cacciatore di taglie, Bounty Hunter in inglese, come suona il titolo originale di questa pellicola di Andy Tennan, già regista di Itch. Pellicola che in Italia è Il cacciatore di ex, perché la persona che Milo deve rintracciare e consegnare alla giustizia è la sua ex moglie. Basta, ti prego. Ricordi quanto eravamo innamorati? Sì. Beh, questo significa che so quando piangi per davvero e quando fingi. Ciao ciao! Oddio, Milo! Nicole fa la giornalista e non si è presentata in tribunale perché è impegnata a seguire una pista su un omicidio. Latitante dunque, e qui entra in gioco Milo, che la trova subito, ma subito la perde, e comincia un lungo viaggio per riportarla indietro. Un viaggio che riserva sorprese. C'è un sub nero che ci sta seguendo, forse vogliono uccidermi! L'unica persona qui che vuole ucciderti sono io! In quale pasticci ti sei cacciata? Adesso ti interessa! Dobbiamo agire sotto copertura. Si trovano ora tutti e due a dover scappare e insieme a risolvere il caso che ha messo nei guai Nicole. Il viaggio sarà ovviamente un modo per ripensare una storia d'amore che forse non è finita. Voi due formavate una coppia orribile. Scusa, ti ha svegliato? E lei ti ha reso infelice. Non quanto renderò infelice lei. Credo proprio che dovrò perquisirti. Perché ti sembra che nascondo un'arma fra le tette? This town. Lui e lei divorziati ma ancora innamorati. Il destino li rimette insieme con una lunga serie di ostacoli. Commedia romantica insieme film d'azione on the road per Jennifer Aniston e Gerard Butler. La coppia è affiatata, lo conferma l'attore scozzese. For me, Jen... It's like she's a Scots girl, you know? Per me Jennifer è una ragazza con i piedi per terra, semplice, con la quale è facile andare d'accordo. E mi è piaciuto un sacco lavorare con lei. Sono stato fortunato, è una ragazza incredibile, perché mi ha permesso di essere sul set il bambinone che sono nella realtà. La vedevamo alla stessa maniera e abbiamo lavorato benissimo assieme. Insomma, è stato tutto fantastico. La trama, però, non è certo forte. C'è qualche scena divertente senza cadere mai nella volgarità. Meglio la parte action rispetto a quella romantica, che è un po' troppo lenta. Questo il giudizio di chi ha visto il film in sala. A me è piaciuto perché c'era Gerald Butler. Film la solita americanata. Sì, abbastanza. Divertente. Non tanto. Lui ci ha dormito sopra. Boh, sì, è una commediola. Perché è stato leggero, ha fatto ridere e è stato piacevole. Sì, mi è piaciuto. Un po' troppo leggerino, non è stato grandissimo, però bellino. Fantastico, perché la nostra Chiara Pizzimenti vede i film a Bologna e si sente dalle reazioni del pubblico fuori dalla sala. Seconda parte del DVD Game, seconda traccia del nostro film misterioso, ascoltiamo. Padre Maurizio! Ah, come va Roberto? Grazie d'essere venuto. Le vorrei presentare mia madre. Molto, molto piacere. Piacere è tutto mio, signora. Mi permetta di esprimerle tutta la mia gratitudine, padre Maurizio. Mio figlio non fa altro che parlarci di lei. Ha della stoffa questo giovanottone. Io non ho dovuto fare altro che seguirlo nei suoi studi e indirizzarlo sulla giusta strada. Avete indovinato di che film si tratta? Scriveteci il titolo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono 5 Blu-ray qui a disposizione per noi, fra chi ci ascolta il sabato e chi la domenica, insomma, di questo straordinario, divertentissimo, e qui con questo aggettivo, diciamo così, dovrei avervi un po' aiutato, film di un autore e attore italiano amatissimo e che forse ha realizzato con questo film uno dei suoi lavori migliori. Per il momento anche in questo caso ci fermiamo qui, fra poco ci sarà però un'altra possibilità. E ora parliamo dell'ultima novità cinematografica di questa settimana di cui vogliamo darvi conto. Si usa dire dulcis in fundo, davvero in questo caso è espressione azzeccata, perché Departures, premio Oscar 2009 per il miglior film straniero, è davvero un piccolo capolavoro che tratta il tema della morte con una leggerezza, un'ironia e soprattutto un amore che non sono esattamente i toni abituali con cui l'addio alla vita viene raccontato, soprattutto al cinema. E invece ci riesce Yohiro Takita, 55enne, regista giapponese, non molto conosciuto oltre i confini del Sol Levante, ma una vera star in patria, anche con questo film che ha incassato diverse decine di milioni di dollari in Giappone. Tutto comincia nel film quando l'orchestra di Tokyo, in cui Daigo Kobayashi suona il violoncello, si scioglie. Davanti a un futuro diventato improvvisamente buio, Daigo lascia la musica e la metropoli e torna al suo paesino d'origine. Resta il problema del lavoro, ma un giorno Daigo legge un'inserzione. Parla di partenze, departures, appunto, come recita il titolo. Daigo pensa a un'agenzia di viaggi e si presenta al colloquio, ma ben allineate lungo la parete dell'ufficio trova una serie di bare nuove di zecca e lì capisce che le partenze dell'inserzione sono quelle per l'aldilà, ma un po' la curiosità, un po' il bisogno, gli consigliano di accettare l'offerta. L'orchestra è sciolta. Vorrei tornare al mio paesino, a Yamagata. Assunto. Eh? Aspetti un attimo. Quindi in pratica cosa? Il tanato esteta. Tanato esteta? Preparare i corpi e adagiarli nella cassa. E alla fine che lavoro dovrei fare? Organizzano cerimonie. Feste di nozze? Mi dai una mano? Sollevale i piedi. Sollevali, ho detto! Vedrai che ci farai l'abitudine. Io credo che tu sia nato... Si è detto di rabbonirmi, lasci stare! Ho scoperto che lavoro fai. Trovati un altro lavoro. Non toccarmi! Ma... Sporco immondo! La giovane moglie, come avete sentito, è più che riluttante all'idea che il marito lavori con i morti. Sì, perché Daigo non dovrà, come avete sentito, semplicemente organizzare i funerali. Il suo ruolo è ben più importante ed è il ruolo del Nokanshi, una figura ormai scomparsa a Tokyo e nelle grandi città, ma ancora viva nel Giappone rurale. Il Nokanshi è lo specialista che compone le salme per l'estremo viaggio. Le lava, le trucca, le veste, le accarezza, con movimenti eleganti e precisi, affinché l'eterno riposo sia anche piacevole. E così davanti ai suoi occhi passano le diverse facce del trapasso, una bellissima suicida che risulta poi essere un ragazzo vestito da donna, un adolescente teppista morto in un incidente stradale, un'anziana nonna che ammirava gli ampi calzetti bianchi utilizzati dalle sue nipoti con le loro uniformi scolastiche. Daigo incontra la morte e forse per la prima volta comincia davvero a capire la vita. Pur nella tristezza dell'ultimo addio, quanto viene eseguito per preparare il defunto, immersi nel silenzio pieno di pace. Voi oggi avete reso mia moglie bella com'era da viva. Vuoi provarci tu? Sì. Ci sono culture in cui la vita e la morte coesistono in perfetta armonia, l'una il contraltare dell'altra, il piatto senza cui la bilancia non sta in equilibrio. Il Giappone profondo, come l'India, è uno di quei posti. Bravo Yohiro Takita a catturarlo e a restituirlo nei colori pastello dei paesaggi del nord-est giapponese, nella delicatezza e nella saggezza dei suoi personaggi, come quello del vecchio Sasaki, il maestro di Tanato Estetica che insegna l'arte al giovane Kobayashi, interpretato dallo straordinario Masahiro Motoki, che porta il film il suo tributo di ironia e comicità, ma anche di intensità e commozione, soprattutto in un finale come non se ne vedevano da tempo. Vi assicuro, Departures è un film di quelli che non si incontrano spesso, trasmette un raro senso di pace, toglie alla morte quel lugubre coté che l'ammanta nelle opulente e frenetiche società occidentali, per farvela guardare da un'altra angolazione. Non perdetelo. E con Departures, che come avete immaginato e capito è il nostro consiglio della settimana, noi andiamo al di là dell'oceano, andiamo negli Stati Uniti con la nostra vetrina Trailer USA che ci presenta le novità americane proprio appena sono disponibili i trailer in lingua originale. Oggi parliamo di Solitary Man, commedia romantica che vede assoluto protagonista Michael Douglas, affiancato da Susan Sarandon e Danny DeVito. Solitary Man uscirà negli Stati Uniti il prossimo 21 maggio e rappresenta il ritorno a questo genere di Michael Douglas, tornato al cinema di recente anche nei panni di Gordon Gekko con il sequel di Wall Street, sempre firmato da Oliver Stone. Come dicevamo, cast notevole, uno dei produttori tra l'altro è Steven Soderbergh, che certo non ha bisogno di presentazioni, ma passiamo la parola alla nostra Micaela Bellisario per sapere qualcosa di più sulla trama del film. Sì, Franco, ciao. Beh, come hai anticipato, Michael Douglas torna alla commedia romantica. In effetti in questo film è un po' un mascalzone, se così si può dire, nel senso che interpreta il ruolo di un marito traditore, di un padre degenerato, assente e di un amante tardone decisamente incallito. Più in particolare interpreta Ben Kallman, proprietario di una grande concessionaria di automobili, che pur con una famiglia alle spalle, due figli adolescenti che lo amano molto, preferisce circondarsi di giovani donne senza preoccuparsi delle conseguenze. In sostanza si sente ancora un uomo ai tante. E in questo passo del trailer sentiamo, mentre in un ristorante chiede ai figli addirittura di non chiamarlo papà. Is he really coming this time? There he is. Dad! Grandpa! Don't call me dad. You don't call me grandpa. What should I call you? You can call me dad. Ecco, ma prima o poi il conto da pagare arriva sempre. Ben Kallman quindi si ritroverà presto pieno di problemi legali, perderà il lavoro e la famiglia e paradossalmente sarà proprio un ex amante, madre di una delle sue ultime giovani amiche, a rendergli la vita difficile vendicandosi. E alla fine Ben Kallman realizzerà di essere ormai invecchiato per fare ancora il guascone in giro. Ma sentiamo la ex amante che gli promette vendetta. Isn't that fantastic? I've never seen anyone turn friends dead at me so fast. The moment you put your hands on my daughter, you cease to exist. No good is worth it. Bene, vedremo allora se provare simpatia per questo donnaiolo o meno. Come dicevamo, Solitary Man uscirà in America il 21 maggio. Da noi la data ancora non si conosce, lo aspettiamo probabilmente per il prossimo autunno. Ciao Micaela, alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. Gran finale della Rosa, come sempre, dedicato al cinema da vedere in casa, da recuperare, da registrare, da rivedere, ma assolutamente gratis, almeno per quello che riguarda la parte televisiva e poi i nostri consigli per l'home video. Parte televisiva che è, come sempre, ricca di proposte, curate dai nostri amici della redazione del settimanale Film TV. Sentiamo cosa ha scelto per noi oggi Sara Sagrati. Ciao Franco e bentrovati a tutti con le segnalazioni della settimana di Film TV. Questa settimana parliamo del manifesto del disagio generazionale dell'America degli anni 70. Il film è Cinque pezzi facili, andrà in onda nella notte tra la domenica e lunedì, tra l'11 e il 12 aprile all'1:50. La storia è quella di Robert e Roica Dupea, figlio di una famiglia colta e borghese che ha la tradizione di dare come nomi ai figli, insomma, nomi legati alla musica. Robert Eroica, nonostante sia un pianista di grandi promesse, è un'anima ribelle, sceglie di allontanarsi dalla famiglia, vivere la giornata e si trova questa fidanzata un po' svampita dal nome Rayette. Alla notizia della malattia del padre decide di tornare a casa, ma ritrova tutto un mondo e quelle vecchie inquietudini di una volta. Questa sua inquietudine profonda che nasce da dentro è anche la conseguenza diretta dell'America di allora, almeno secondo quello che, insomma, vediamo nel film. Il film però non è che contesti, chiamiamola contestazione degli anni 70, è un film che non contesta direttamente, il Vietnam è lontano nella storia, ma contestualizza la rabbia sorda di quella generazione, qui tra l'altro perfettamente incarnata da un Jack Nicholson strepitoso che forse non è mai più stato così misurato nella sua interpretazione. La scena in cui suona i cinque pezzi facili che danno da titolo al film è veramente da brividi. Il regista è Bob Russelson, qui al suo secondo film, e disegna un vero cult generazionale, forse un po' datato nella caratterizzazione dei personaggi, ma che rimane comunque un caposaldo assolutamente da vedere e da sentire veramente in tutti i sensi, con le orecchie, col cuore, con la testa. E con questo abbiamo concluso, risentirci la prossima settimana. Grazie Sara Sagrati, come non farsi convincere dalla sua dente racconto di Sara, 5 pezzi facili, allora film imperdibile, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 aprile all'1:50 su Rai 3, se non siete nottambuli, puntate il videoregistratore. Siamo alla terza e conclusiva finestra del DVD Game, ascoltiamo insieme. Avete aspettato un'ora, ma ora finalmente lo potete vedere. È un modello scintillante, intimo, malinconico e com'era? È sincero, ma è un modello soprattutto adatto per saltare questo giudizio. Beh, non potevamo che lasciarvi con insomma, la frase rivelatrice, quella che non potrete sicuramente non avere riconosciuto. L'abbiamo messa in fondo perché se c'era stata qualche difficoltà nelle prime due tracce dove la voce inconfondibile del protagonista non era stata fatta ascoltare, beh qui insomma sono sicuro che avrete indovinato in molti. Vi ricordo ci sono 5 bei Blu-ray qui pronti di questo straordinario film di cui dovete scriverci il titolo alla rosa purpurea @radio24.it e se settimana prossima noi vi sveleremo chi ha vinto e anche che cosa c'è dentro questo cofanetto blu che hanno preparato i distributori. Però, come sempre, noi andiamo indietro di 7 giorni, andiamo a sentire una delle tracce che avevamo seminato la settimana scorsa. Da quanto abbiamo appreso, Tokyo sembra aver ricevuto l'impatto maggiore del terremoto. Secondo notizie non ancora confermate, vaste aree del paese sarebbero sott'acqua. Restate con noi. Catastrofico, avete sentito, aree del paese sott'acqua, l'avevamo anche usato questo aggettivo la scorsa settimana, catastrofe imminente sul cinema e sull'home video. In questo caso il Blu-ray è quello di 2012, il film che all'inizio di questa stagione ha un po' cavalcato, se vogliamo, la paura di fine del mondo dettata dal famoso calendario Maya, eccetera, eccetera. Sapete di cosa si tratta. Hanno vinto, hanno indovinato per primi e quindi si troveranno a casa il Blu-ray di questo film. Damiano Posa di Prato e Gloria Rebecchi di Cadeo, provincia di Piacenza. Loro i nostri più fortunati e più bravi, soprattutto fra gli ascoltatori. Ma c'è in linea con noi già Claudio Pofi, a cui chiediamo di raccontarci un po' il lavoro che è stato fatto su questo Blu-ray 2012. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, Sony Pictures Home Entertainment ha fatto veramente le cose in grande, sono addirittura 3 le edizioni per il mercato italiano, c'è un'edizione singolo e doppio DVD, ovviamente la doppia DVD è quella che offre maggiori extra, grandissima attenzione anche per quanto riguarda il Blu-ray, che è letteralmente uno spettacolo per gli occhi, sono immagini rasente alla perfezione e da riferimento anche per quanto riguarda il Blu-ray l'audio, che restituisce veramente un suono potente e aggressivo che potrà pagare sicuramente anche l'appassionato più esigente. Tra gli extra segnalo sicuramente per il Blu-ray una visione immagine nell'immagine che permette di assistere al film con focus sulla produzione, c'è un interessante commento del regista Roland Emmerich, scene eliminate e un interessante finale alternativo. E questo quindi il menu di navigazione di questo film 2012. Noi a questo punto andiamo alle nostre recensioni e incontriamo un altro film molto divertente, un genere di commedia molto particolare, un po' volgarotta eccetera, ma insomma due attori di razza per questo genere, che ha sfornato questo film che si intitola Anno 1. Ascoltiamo la clip. Ti rendi conto? 2 uomini. Uno va a guidare un villaggio e l'altro va ad esplorare il mondo. Sei sicuro di non voler venire a darmi una mano? Non hai bisogno di me. Lo sanno tutti che sei il più in gamba del villaggio. Ora sanno anche che sei il guerriero più incredibile che abbiano mai visto. Il modo in cui hai atterrato quella donna. Però... Beh, sai com'è. Non mi ha lasciato scelta, così ho dovuto colpirla in faccia. Nella tarda preistoria seguiamo le avventure di 2 autentici sfigati, Zed e l'amico O, impossibilità di fare colpo sulle donne della tribù perché privi di un fisico possente e entrambi incapaci a procurare cibo. Violeranno il frutto proibito finendo cacciati, un allontanamento che permetterà ai 2 cialtroni di vivere incredibili avventure e incontrare sulla strada verso Gomorra personaggi biblici come Caino e Abele, Abramo e il figlio Isacco. Il regista attore Harold Ramis, in passato, che ricordiamo in passato per altre opere di maggiore impatto, diciamo, come Il giorno della marmotta e Terapie pallottole, mette in scena un film carico di gag che però dopo un inizio col botto perde in parte di mordente. Da Sony Pictures Home Entertainment abbiamo questo DVD, ma soprattutto il Blu-ray, sono entrambi di qualità notevole. Per quanto riguarda il Blu-ray abbiamo una traccia DTS in italiano ad alta risoluzione che regala numerosi momenti di divertimento. Tra gli extra, soprattutto per il Blu-ray, segnalo un extra molto interessante che si chiama Sala di Montaggio, che permette di creare un videoclip rimontando le immagini del film. Sono presenti tra gli altri anche il commento del regista e degli attori Jack Black e Michael Cena. Commedia romantica per chiudere le nostre segnalazioni, romantica ma non banale, anzi un film abbastanza particolare questo, 500 giorni insieme, siamo anche in questo caso all'inizio della stagione cinematografica in corso, film firmato Mark Webb, una coppia giovane ma promettente come Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, come sono stati questi due ragazzi in questi 500 giorni d'amore? Sentiamo. Ti è già successo di lasciare una ragazza? Certo. Ed è già successo che una ragazza lasciasse te, ovviamente. Non è la stessa cosa. Perché? Perché Sole è diversa. Che c'entra? Ne troverai altre mille. Stiamo scherzando. Tu sei il migliore di tutti. Te la dimenticherai. Sarà una banalità, ma io ci credo. Com'è che dicono? Si chiude una porta, si apre un portone. Ma che? A me pare che dicano così. Beh, dicono una cazzata. Io non la voglio dimenticare. A Sole non rinuncio. Tom e Sole si sono conosciuti sul lavoro, la spietata corte di lui li ha portati a trascorrere un breve e burrascoso rapporto con più bassi che alti. Lei si aspetta molto di più dalla vita e da un compagno ideale. 500 giorni dopo il loro primo incontro, Tom, sicuramente più maturo, prenderà finalmente consapevolezza che si tratta di una relazione impossibile e che non può funzionare a senso unico. Commedia romantica, ma con i piedi per terra, che non cade nel tranello di offrire i soliti cliché di genere, affrontando con una certa profondità d'animo un giovane rapporto di coppia. E da Fox Home Entertainment abbiamo il DVD, che è di ottima qualità, ma soprattutto un Blu-ray di eccellente resa, che offre una notevole profondità di campo, tridimensionalità. Abbiamo sostanza per la traccia in italiano, in DTS, anche se l'opera non offre particolari spunti se non per l'accompagnamento musicale e rumori d'ambienza. Sicuramente migliore l'originale inglese ad alta risoluzione. Ci sono interessanti extra, tra cui segnalo scene tagliate ed estese, un cortometraggio diretto dal regista del film e una chiacchierata con i due interpreti principali. Bene, questo appunto è il racconto di 500 giorni insieme, anche qui un piccolo aneddoto, abbiamo cominciato la trasmissione raccontando poi i guasti ogni tanto degli adattamenti italiani di titoli e dialoghi americani, Boris Sollazzo ci raccontava di questo ghostwriter diventato l'uomo nell'ombra, che invece la parola ghost era importante perché quello precedente era stato ucciso, quindi c'era questa sorta di storia del fantasma, qui la ragazza che nella traduzione italiana come avete sentito si chiama Sole, nel film originale si chiama Summer, cioè quindi si chiama estate, è un bellissimo nome e che viene usato per alcuni giochi di parole legati appunto alle stagioni, allo scorrere dei giorni. Ovviamente tutto questo non può essere possibile con la traduzione di Sole. Ecco, sono piccoli appunti che però possono darvi il senso di quanto si perda a volte nel passaggio tra la lingua originale e il doppiaggio e l'adattamento all'italiano. Grazie Claudio Poffi, appuntamento alla prossima settimana. A presto, un saluto. E allora con Claudio noi abbiamo chiuso la nostra puntata della Rosa Purpurea, non ci resta che ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato in redazione Giorgio De Luca e Anita Panizza, in regia Valeria Bernardi. Appuntamento al prossimo weekend, sabato alle 18, domenica alle 15 e poi tante repliche notturne per chi magari non dorme ma vuole ascoltare cose di cinema. Un saluto da Franco D'Assisi.